24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. In merito alla manovra economica, l'Unione Europea ammonisce l'Italia, servono misure per la crescita. Bene, l'ultima seduta del mese per le borse europee, i dati statunitensi spingono i listini del vecchio continente, premiando soprattutto i titoli industriali, ma il bilancio per il mese di agosto resta pesante. In Libia i ribelli dicono il Rais è ancora qui, abbiamo il diritto di ucciderlo. Intanto via libera delle Nazioni Unite allo scongelamento degli assets libici nel Regno Unito. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura il duro ammonimento dell'Unione Europea all'Italia sulle misure per la crescita. Nell'analizzare i contenuti della manovra italiana, la Commissione Europea dedicherà particolare attenzione alle misure strutturali destinate ad agevolare e sostenere la crescita per verificare che esse rispettino i parametri fissati nelle raccomandazioni rivolte dall'Unione Europea all'Italia lo scorso giugno. Lo ha detto Amadeu Altafai, portavoce del Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari, Olli Rehn. Lo ha intervistato Sergio Nava. Non ci aspettiamo che i target di bilancio vengano messi in discussione dall'Italia, soprattutto per ristabilire la fiducia verso l'economia italiana sui mercati. Noi presteremo molta attenzione alla composizione del pacchetto finale della manovra quando il testo ci sarà presentato. Siamo fiduciosi, in particolare, che le misure per la crescita divengano ancora più prominenti. Ciò è molto importante per l'Italia, dove l'attività economica risulta ancora moderata. È importante includere dunque nella manovra gli strumenti necessari per rafforzare la crescita e di conseguenza favorire l'occupazione. Non chiediamo necessariamente sforzi ulteriori. Stiamo assistendo, non solo in Europa ma globalmente, a un certo rallentamento dell'attività economica, il che rende ancora più necessario introdurre misure per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro. I mercati sono molto nervosi, come abbiamo visto quest'estate. Occorre ora rimuovere tutte le incertezze. Chiusura in forte rialzo per le borse europee grazie ai dati macro provenienti dagli Stati Uniti e alle scommesse sull'adozione di nuove misure di stimolo all'economia da parte della Fed. Gli acquisti hanno premiato soprattutto i titoli industriali, in particolare auto e costruzioni, in crescita di oltre il 3,4%. Francoforte ha chiuso a più 2,5%, Parigi a più 3,07% e Londra a più 2,39%. Chiusura in deciso rialzo anche per Piazza Affari, ma il bilancio per il mese di agosto resta pesante. Agosto si chiude con un bilancio estremamente negativo per le borse europee, soprattutto per Milano, che da fine luglio ha realizzato le perdite più consistenti insieme al listino tedesco. Dal 31 luglio il FTSE MIB ha perso il 15,57% e l'Allshare il 13,9%. Ha fatto peggio solo Francoforte, con il DAX 30 che ha ceduto oltre il 19%. Cali inferiori invece per Parigi, Madrid e Londra, con flessioni tra l'11 e il 7% circa. Nonostante il bilancio negativo di agosto, l'ultima seduta del mese si è chiusa con forti rialzi grazie soprattutto al recupero dei titoli industriali, in particolare di auto e costruzioni. A Milano, dove il FTSE MIB ha segnato più 3% circa, le migliori del paniere principale sono state Fiat Industrial più 7,5% e Pirelli più 6,7%, spinte dai forti acquisti sul comparto. Bene anche Prysmian e Impregilo, in salita di quasi il 5%. Riflettori accesi ancora sul comparto del lusso, trainato dai conti della francese Hermès. Tod's e Luxottica hanno guadagnato oltre il 4%. Livia Zancaner da Radio Corpo per Radio 24, il Sole 24 Ore. Andiamo in Libia. Muammar Gheddafi è sicuramente ancora nel paese, secondo i ribelli. Se non si arrende, abbiamo il diritto di ucciderlo. Lo hanno detto altri rappresentanti del Consiglio Nazionale di Transizione, secondo i quali Rais all'80% si trova a Bani Walid, a sud-est di Tripoli, oppure nei dintorni della capitale. Altre voci danno Gheddafi vicino a Sirte, sua città natale. Intanto le Nazioni Unite hanno dato il via libera allo scongelamento degli assets libici. Si tratta di 1 miliardo di sterline, 1,5 miliardi di euro, congelati dal Regno Unito al momento dell'applicazione delle sanzioni nei confronti del regime di Gheddafi. La crisi siriana sbarca nelle strade di Parigi, dove la comunità dei siriani all'estero si riunisce da mesi per protestare contro la repressione interna. Allah, Giulia, La presenza dei gruppi filo Assad alza la tensione. In vista del fine settimana, i Seres rafforzano il cordone di sicurezza della protesta che in Europa riflette quella ben più drammatica in corso all'interno del paese. Intanto si moltiplicano le denunce di repressione anche nei giorni dell'Eid el-Fitr, la chiusura ufficiale del Ramadan. Amnesty International denuncia che le morti in carcere hanno raggiunto numeri impressionanti, afferma di avere il nome di almeno 3.000 persone oggi imprigionate dalla polizia di Damasco. Sul fronte diplomatico, mentre il capo della diplomazia europea Catherine Ashton condanna la repressione definendola brutale, la Russia frena il fronte antiregime, imponendo a sua volta che la risoluzione ONU chieda semplicemente a Damasco di accelerare le riforme. Venerdì si vedrà poi se l'UE, finora prudente, imporrà davvero l'embargo al petrolio siriano, tagliando così un'importante fonte di finanziamento. È infatti l'Unione a comprare il 95% del petrolio siriano, coprendo più di un terzo delle entrate in valuta pregiata del paese. Gigi Donnelly, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo in Francia per l'affaire Betancourt. L'affaire Betancourt torna ad agitare la scena politica francese. Sotto i riflettori ci sono le importanti somme di denaro che la donna più ricca di Francia, erede dell'impero L'Oréal, avrebbe elargito ad alcuni leader politici della maggioranza e di cui non c'è traccia nei conti personali dei partiti. Un libro in uscita domani, scritto da due giornalisti di Le Monde, riporta tra le altre la testimonianza del magistrato che ha seguito l'inchiesta fino a un anno e mezzo fa, quando il caso è stato trasferito a Bordeaux. Stando alle sue dichiarazioni, un'ex infermiera di Madame Betancourt avrebbe visto consegnare dei pacchi di contanti a Nicolas Sarkozy nel 2007, quando l'attuale presidente era in campagna elettorale. La segretaria socialista Martino Bri chiede un'indagine, l'Eliseo si indigna, ma è difficile che si vada oltre il normale periodo di promozione del volume. Le parole dell'infermiera non sono mai state messe a verbale e il magistrato non le ha mai segnalate agli inquirenti. E d'altronde, di cose come queste, è probabile che ne leggeremo molte negli 8 mesi che ci separano dal voto per le presidenziali. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. 18 mesi prima di quell'11 settembre, la CIA stava seguendo due dei futuri attentatori, ma non avvisò l'FBI. Alla vigilia del 10° anniversario dell'attacco di Al-Qaeda all'America, un documentario francese getta nuove ombre sull'operato dell'intelligence statunitense. Si tratta di un documentario in 2 parti, trasmesso sul canale franco-tedesco Arte e visibile sulla piattaforma Sky. A parlare soprattutto l'ex capo dell'antiterrorismo americano, come racconta uno degli autori, Fabrizio Calvi, raggiunto da Raffaella Calandra. Quello che documentiamo con interviste di agenti dell'FBI e responsabili della CIA è che dal gennaio 2000 la CIA sapeva che due di questi attentatori stavano per entrare negli Stati Uniti, verosimilmente li ha seguiti, controllati, però non solo non l'ha detto all'FBI, però ha proibito ai suoi agenti di avvertire l'FBI della presenza di questi due agenti sul territorio. Riportiamo dichiarazioni di Richard Clark, il zar dell'antiterrorismo della Casa Bianca di Clinton, che dice che 50 persone della CIA, lui era pazzo dal furore quando ha scoperto questo di recente, che queste 50 persone, incluso il direttore, sapevano della presenza di questi negli Stati Uniti e non li hanno informato a lui e non ha informato la CIA. Ma sapevano anche che stavano forse progettando un attentato? Non si può dire questo. Sapevano che qualcosa stava succedendo perché li aveva inseguiti da Kuala Lumpur, dove c'era il summit per l'11 di settembre, però non si può dire che la CIA sapeva. In chiusura di questo 24 ore in Europa vi raccontiamo una storia che viene dalla Cina. Quello che documentiamo con interviste di agenti dell'FBI e responsabili della CIA è che dal gennaio 2000 la CIA sapeva che due di questi attentatori stavano per entrare negli Stati Uniti, verosimilmente li ha seguiti, controllati, però non solo non l'ha detto all'FBI, però ha proibito ai suoi agenti di avvertire l'FBI della presenza di questi due agenti sul territorio. Ma sapevano anche che stavano forse progettando un attentato? Non si può dire questo. Sapevano che qualcosa stava succedendo perché li aveva inseguiti da Kuala Lumpur, dove c'era il summit per l'11 di settembre, però non si può dire che la CIA sapeva. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadori in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.